Italia in controluce. È una novità su cui carattere positivo possiamo tutti concordare e sono certo che questa nutrita rappresentanza non dimenticherà di promuovere i diritti delle donne, di offrire alle ragazze italiane migliori prospettive di lavoro e di vita. Oh. Questo Giorgio Napolitano, poco fa, il giorno dell'8 marzo, l'abbiamo chiamato così: le donne, la politica e il vento del cambiamento. In questo giorno Italia in Controluce dedica la sua puntata alla politica delle donne e alla lunga marcia verso il cambiamento. Vi soddisfa la partecipazione delle donne in politica oppure c'è ancora molta strada per la piena parità in Parlamento e nelle istituzioni? 349-238-6666, abbiamo molte voci, qui con me c'è Valentina Forlanetto. Sì, buongiorno Daniele, buongiorno agli ascoltatori. Ci sarebbero in realtà buoni motivi per festeggiare come donne, stando ai numeri tra Senato e Camera. Quasi un eletto su tre è donna, il 31%, con l'Italia che batte dopo le elezioni il Parlamento europeo, dove la percentuale si ferma al 25%. Tra i partiti maggiori, il più alto numero di donne arrivate in Parlamento si trova nelle liste del PD con il 41%, che precede il Movimento 5 Stelle, che è fermo al 38%, poi PDL, Lista Monti, UDC e FLI, entrambi al 22%, SEL al 20% e Lega Nord al 14%. Queste le percentuali. Dando un'occhiata anche alle elezioni regionali, nel Lazio sono state elette solo 9 donne su 50 consiglieri, in Lombardia 15 su 80, in Molise 2 su 20, quindi in percentuale per le regionali è andata un po' peggio rispetto al Parlamento, dove abbiamo detto il 31% è donna, quindi uno tsunami grazie al Movimento 5 Stelle, ma anche, come abbiamo visto, grazie alla presenza delle elette nelle file del PD, che ci pone in testa all'Europa. Ci batte soltanto la Germania con il 32% di elette nel Parlamento e la Spagna con il 38%, mentre la Francia è sotto al 25% e la Gran Bretagna al 22%. Insomma, tutti buoni motivi, oltre al fatto che si discute in queste ore di una possibilità, dell'ipotesi di un Presidente della Repubblica che verrà eletto tra adesso e la fine di maggio donna, e la possibilità, si fa il nome insistente, della Cancellieri come Premier donna. A me è una festa a metà, visto la situazione di immobilismo, di stallo politico in cui ci troviamo, quindi un vero paradosso per chi sperava in una politica più rosa. Noi abbiamo sentito alcune delle esponenti che ora siedono in Parlamento. Farei sentire, Daniele, se sei d'accordo, l'onorevole Giorgia Meloni, già ministro del centrodestra e oggi rappresentante di Fratelli d'Italia, per capire da lei, insomma, come la vede rispetto a questo paradosso che abbiamo appena illustrato. Io credo che valga la pena di concentrarsi sul tema della partecipazione delle donne in politica, non solamente sul piano numerico. Cioè, noi tendiamo a fare spesso, a mio avviso, l'errore di considerare che sia sufficiente avere una tot percentuale di donne presenti in un'assemblea elettiva per immaginare una politica che sappia guardare anche ai bisogni delle donne. Credo che invece dovremmo concentrarci un po' di più sulla qualità della rappresentanza. Cioè, io farei volentieri a meno, mettiamola così, di una 5% di donne in Parlamento, se però quelle che ci sono avessero ruoli apicali. Cioè, penso che sarebbe stato più facile per noi risolvere i tanti problemi che discriminano le donne se avessimo avuto un Presidente del Consiglio donna, se avessimo avuto più spesso ministri con ruoli centrali donne, dal lavoro agli altri temi che poi incidono nella vita di questa società, e che quindi, insomma, permanga, nonostante una maggiore presenza di donne in politica, che è chiaramente una cosa molto importante, però un tabù che alle donne vorrebbe affidare solamente le pari opportunità e al massimo la cultura, quando non la famiglia, insomma, come se le donne non potessero occuparsi anche di tutto il resto. Però arriviamo da un governo tecnico in cui erano donne, e sono donne perché sono ancora in carica in queste ore, il ministro del welfare, il ministro dell'interno. Guardi, è una delle poche cose che io ho condiviso del governo, anzi forse, diciamo, una delle due cose che ho condiviso del governo Monti. Sicuramente da questo punto di vista i ruoli apicali che hanno avuto le donne del governo sono molto forti, rappresentano un elemento assolutamente positivo rispetto a quello che abbiamo visto, insomma, accadere negli altri anni. Chiaramente poi non si può giudicare un governo solo su questo, e secondo me il governo Monti è stato devastante, ma insomma questo è un altro tema. E tra l'altro si ritorna al nome della Cancellieri in queste ore per un ipotetico governo, diciamo così, tecnico del Presidente, che potrebbe essere gradito un po' a tutte le forze politiche. Lei come lo vedrebbe? Malissimo, guardi, io penso che se noi non impariamo dai nostri errori siamo completamente folli. Noi abbiamo già creduto, io non lo credevo neanche allora, ma insomma le forze politiche hanno già creduto che un governo presuntamente tecnico, sostenuto da forze politiche che la pensano in maniera diametralmente opposta su tutto e su tutti, potesse risolvere i problemi degli italiani. Mi pare che sia andata diversamente, che quel governo abbia contribuito a mettere l'Italia in ginocchio e che non si possano più vendere come tecnici né Mario Monti né i suoi ministri, già che Mario Monti ha fatto l'esatto contrario di quello che aveva dichiarato che avrebbe fatto. Il ministro Cancellieri, considero il ministro Cancellieri, diciamo, parte di questo ragionamento e di questo gioco. Lei vede quindi una possibilità per le larghe intese? No, io vedo una possibilità per il voto, se non c'è una maggioranza che sia in grado di dare delle risposte a questa nazione. Gli unici governi che sono riusciti a dare qualche risposta agli italiani sono quelli che avevano delle maggioranze ampie e coese. Tutti gli altri, quelli che hanno dovuto mendicare i voti in Parlamento, quelli che hanno dovuto mendicare i parlamentari, quelli che hanno dovuto mendicare le risposte, hanno dato purtroppo delle risposte basate sul compromesso. I compromessi si fanno sempre a ribasso e si fanno sempre a ribasso per il popolo italiano. Poi, se si trova una maggioranza in Parlamento, chiaramente sarà capace di questo, sarà un bene, così come vedremo che cosa farà Bersani con i suoi famosi 8 punti, li porti in aula e valuteremo gli 8 punti all'attenzione del Parlamento. Allora, vi abbiamo chiesto se vi soddisfa la partecipazione delle donne in politica oppure c'è ancora molta strada da fare per la piena parità in Parlamento e nelle istituzioni, come ci ha raccontato poco fa Valentina Forlanetto. Siamo contenti perché moltissime donne sono entrate in Parlamento, però ancora un po' di strada, molta strada c'è da fare. Piera, che è una nostra ascoltatrice, dice che se guardo gli eletti del centro-sinistra nel Lazio devo pensare che le donne sono elette sulla lista bloccate, neanche una con le preferenze. Ma di quale cambiamento parliamo? Dice una nostra ascoltatrice. Un altro ascoltatore dice: è vero che nei bassi ceti la donna è penalizzata, ma nella società più civile ha molti più diritti, figli e divorzi. Un altro, come Leo, dice: c'è di sicuro di gente, di politici come la Minetti, possiamo fare a meno, per ricordare l'esempio, secondo molti negativo, di Nicole Minetti. Quota rosa, dice Massimo da Roma, tu sei qui perché non vali, ma perché hai una corsia preferenziale, dice un nostro ascoltatore. Allora, so che tu poi hai sentito anche Deborah Serracchiani. Sì, abbiamo esteso le nostre questioni a diverse parlamentari, tra l'altro abbiamo cercato di contattare alcune esponenti del Movimento 5 Stelle che sono state elette senza riuscirci tutta la mattinata, non perché abbiano detto di no, perché non siamo neppure riusciti a raggiungerle, nonostante avessimo numerosi numeri di telefono, e pazienza, le risentiremo. Invece abbiamo raggiunto Deborah Serracchiani, che è eurodeputato, esponente del PD. Abbiamo allargato con lei il discorso proprio alle quote rose, alla presenza non solo delle donne in politica nella società ma anche nelle aziende, perché ferve il dibattito anche in Europa. Lei è eurodeputato. Al Consiglio europeo infatti si discute in questo momento di una proposta che vorrebbe che le donne fosse riservato il 40% dei consigli di amministrazione entro il 2020. In Italia attualmente le donne ricoprono il 14% dei posti, quindi rispetto, diciamo, al Parlamento ricoprono una quota che è la metà. Abbiamo chiesto a lei qual è la situazione in Europa. Beh, sicuramente ci sono situazioni lavorative diverse fra i 27 paesi europei. Sicuramente però l'Italia, da questo punto di vista, aveva già fatto dei passi avanti notevoli anche sotto la precedente legislatura del governo Berlusconi, una previsione ad hoc sulla composizione dei consigli di amministrazione, quindi la strada era un po' quella già tracciata a livello europeo. Devo dire che, ahimè, il problema non l'abbiamo soltanto con la Germania, problemi sono arrivati anche dalla Gran Bretagna, mentre naturalmente c'è una sensibilità diversa da parte di quel nord Europa che il salto culturale l'ha già fatto da tempo e che a volte ha il problema di avere anche più donne rispetto agli uomini. Quindi È chiaro anche che dietro a questa proposta c'è un trascinamento culturale importante che noi dobbiamo far nostro. Il Parlamento europeo in questo senso si è già espresso, almeno nel mio gruppo, nel senso positivo, quello dei socialisti e democratici al Parlamento europeo. Adesso bisogna però anche che siano d'accordo gli stati nazionali. Credo che però debba essere, ed è un segnale importante, quello della partecipazione femminile a tutte le attività produttive, ai luoghi decisionali e anche, perché no, alla politica. Questa era Deborah Serracchiani, eurodeputato ed esponente del Partito Democratico. Ringrazio Valentina Forlanetto perché ha realizzato le interviste di questa puntata dell'8 marzo e buon 8 marzo naturalmente a tutte da Italia in Controluce. Vi ricordo, riprendiamo alle 13.30, dove stiamo in sostanza già da questa settimana stiamo facendo un taccuino dell'agenda politica, e lunedì entriamo veramente nel vivo perché arrivano le new entry, arrivano i deputati e si compone il Parlamento. La prossima è la settimana chiave in cui Italia Controluce vi condurrà per mano in questa difficile uscita dalla crisi politica in Italia.